fatto un incubo. C'era una cella che mi stringeva, mi soffocava, era contorta, un po' distorta, non si arrendeva, non dava tregua, volevo scappare, non c'era il verso, è tutto chiuso. Sono intrappolato, è tutto brutto, un buco fondo ed è contorto, un po' mostruoso, sta aumentando, mi sta mangiando, volevo scappare. Non c'era il verso, è tutto chiuso, sta uscendo un...